Lord have mercy on my soul. su bastiato. Chiama che su bastiato. Shiga jaga domba. Bastiato. Mamma mia, chi ama che su bastiato. Lord have mercy on my soul.